C'era una volta una donna molto cattiva, egoista e avara. Non si curava degli altri e pensava solo a se stessa. Invecchiò e poi morì. Il Signore decretò che dovesse andare dritta all'inferno. Ma il suo angelo custode si presentò davanti a Dio, chiedendo di rivedere la sua decisione, se magari si poteva trovare un qualche gesto di bontà che potesse permettere a quella donna di andare in purgatorio, con la speranza quindi di poter espiare le sue colpe e magari col tempo arrivare anche in paradiso. Il Signore ascoltò quel fedele e premuroso angelo custode, che sembrava proprio non rassegnarsi a consegnare quell'anima al diavolo, e gli disse: ho concesso una lunga vita a questa donna, vedi se trovi nel libro della vita di quest'anima ciò che io non ho trovato, una sola buona azione. L'angioletto sfogliò tutto quanto il libro e trovò che una volta la donna, dopo che una mendicante l'aveva importunata per parecchio tempo chiedendole l'elemosina, le aveva infine gettato una cipolla. Allora corse da Dio e glielo fece notare. Il Signore gli disse: prendi una cipolla e porgila a quest'anima che adesso giace fra le fiamme dell'inferno. Se riesci a tirarla su, potrà entrare in purgatorio e salvarsi. L'angelo custode prese una bella cipolla con un lungo stelo e la calò verso l'inferno, chiamando la sua protetta. Quella lo corse ad afferrarla e cominciò ad arrampicarvisi urlando all'angioletto di tirarla su. Intanto altre anime dell'inferno le si attaccavano ai piedi, alle gambe, cercando pure loro di essere recuperate e portate via. Ma la donna sgambettava e scalciava per liberarsene, le voleva respingere con tutte le sue forze. In quel momento lo stelo della cipolla si ruppe e la donna ripiombò definitivamente tra le fiamme. L'angelo custode capì subito il perché, senza neanche chiedere spiegazioni al Signore. La donna si sarebbe salvata se avesse dato anche ad altri la possibilità di salvarsi. Il suo egoismo l'aveva condannata.